Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Le consigliavo solo di cambiare il modo di rapportarsi con le persone che chiamano, anche perché le ricordo che l'educazione è alla base di tutto, insomma. Se no la trasmissione se la fa lei da solo la prossima volta. È un maleducato lei. Questo ieri aveva 21 anni, 21 anni, non dico niente, 21. Molto forbito. Allora, vogliamo dire una cosa chiara? Comunque la pensiate, il fatto che Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, voi lo potete giudicare come volete, bene, male, un razzista, un uomo tutto d'un pezzo, un politico vero, altri invece un politico falso, è assurdo che poi la contestazione è legittima, E dunque Salvini, che è nato all'interno della contestazione come movimento, come anche quando era nella sinistra tantissimi anni fa, quando era più ragazzino, sa che cos'è la contestazione ed è legittimo contestare un leader politico, per carità. Però non è possibile che ogni volta che vada da qualche parte venga aggredito da orde di delinquenti e di deficienti che gli vogliono sputare addosso, tirare i sassi, rompere la schiena, eccetera, eccetera. Tant'è che oggi anche il Partito Democratico, il partito al governo, il partito che lui, diciamo, attacca ogni giorno anche in maniera virulenta, in maniera forte, ha detto, bisogna proteggere in qualche modo, no? Proteggere un leader politico che fa il suo mestiere, bene, male, questo lo giudicate. E sentite come lo stesso Salvini, non sei d'accordo Parenzo? Sì, assolutamente ma... sì, ma non ho interrotto il flusso della presentazione. La poesia, no, dici, non hai interrotto la poesia. Esatto. Non hai interrotto la poesia. Interrompi perché interrompi, stai zitto perché stai zitto. No, hai ragione. Intervieni. Allora, Salvini a Radio Padania. Hai ragione. Salvini a Radio Padania parla dopodiché, di zecche, però... di zecche, senti. Sì. Sì, mi sono beccato lo sputo di uno spaccendato dei centri sociali, la qualcosa mi fa abbastanza schifo. La zecca che è arrivata da dietro, da Vigliacco, perché se arrivava davanti andava in maniera diversa e mi ha sputato addosso. È normale che invece di rincorrere gli spacciatori devono tenere a bada quattro figli di papà spaccendati che giocano a fare i rivoluzionari da centro sociale? Mi domando dove sia Renzi, mi domando dove sia Alfano, mi domando dove sia la democrazia, aspetto le scuse e le condanne di questi atti di vigliaccheria e di violenza da parte di tutti i partiti e quindi o Renzi e Alfano intervengono e velocemente oppure ci arrangeremo da soli. Ecco, questo ci arrangeremo da soli. Dire, scusa, non so cosa voglia dire. Andava tutto benissimo. Che ne so, la Guardia Padana, magari, no? Mettono insieme la Guardia Padana. Ma manca solo quello in questo disgraziato. È vero che se uno non c'è lo Stato che lo difende, fa per conto proprio, no? Altrimenti. Non mi sembra che non c'è lo Stato che lo difende. Brutte quelle aggressioni, ma lui ha anche la scorta, quindi non diciamo cose errate. Però è da giorni che va avanti così. Anche le virgole. È da giorni che va avanti così. Ho condiviso anche le virgole di quello che tu hai in un. Nessuno tocchi Salvini, ma come si fa a dire che lo Stato non lo difende, visto che ha giustamente più uomini di scorta? Cioè, di che parliamo? Alfano gli ha dato il Ministero degli Interni, giustamente gli ha dato la scorta. Ancora Salvini. Ancora. Lo sputo in faccia, se del caso, me lo prendo dalla mia bimba di 2 anni e mezzo mentre beve il latte, non da una zecca che non ha il coraggio di esprimere le sue idee perché non ce le ha, che si esprime a sputi. E questo vale per il ragazzo ferito ieri a Senigallia e vale per quei giornalisti servi che o fanno finta di niente oppure addirittura qualcuno dice ma se le vanno a cercare. No, qualcuno può anche dire se le vanno a cercare, siccome fanno politica in maniera forte contro gli immigrati, contro i clandestini, contro gli zingari, contro i rom, qualcuno potrebbe dire, beh, se le vanno a cercare, in fin dei conti sangue e merda, cioè se tu schiaffeggi, se tu attacchi, e gli altri rispondono con le aggressioni. Però c'è una piccola differenza, cari signori che la pensate in questo modo, non è che Salvini va là con i bastoni ai campi rom, va a fare politica contestabile quanto volete, e questi sputano addosso, se trovassero Salvini in mezzo alla strada se lo inchiappetterebbero, C'è un deputato che si chiama Vecchio di Sciolta Civica, come la chiamo io, Sciolta Civica, signor Vecchio. Ah, a proposito, ancora il signore della Lega Nazionale Dilettanti non si è dimesso dopo le frasi sulle quattro lesbiche che non bisogna dargli un euro. Lui le nega. Vediamo di pizzicarlo al telefono, vediamo se ci riusciamo. Comunque, speriamo. Vecchio, deputato Sciolta Civica, dice, io non sapevo che in Parlamento rimborsavano anche i massaggi prostatici. Tu sai cosa sono i massaggi prostatici? Guarda, l'ho appreso dalla gabbia, mi pare. I massaggi prostatici. Sì, sono massaggi che vengono fatti. I parlamentari vengono rimborsati dei massaggi prostatici. Non so cosa siano. La prostata. Sì, no, capito. Massaggi prostatici. Secondo voi cosa sono i massaggi prostatici? Ragazzi, intendiamoci bene. Il parlamentare di Sciolta Civica Vecchio ha una sua idea sui massaggi prostatici. Come sei caruccia. Bravo. Allora. Senta, ho scoperto una cosa. Ho scoperto che la Camera rimborsa il massaggio prostatico. Minchia. Cioè dire praticamente la Camera... rimborsa le seghe che fanno ai parlamentari? Più o meno. Non lo sapevo. Questa informazione le è utile oppure no? A me no. No, sicuri? Sicuri, perché l'età delle seghe l'ho già passata. Ragazzi, questa volta l'ha detto lui, un deputato della Repubblica del defunto partito Sciolta Civica, che in realtà esiste ancora, Sciolta Civica, segretario Zanetti. Comunque, il signor Vecchio ha detto, è passata l'età delle seghe, non faccio più i massaggi prostatici, eccetera, eccetera. Non ci attaccate, Ma torniamo su rom, rapine, immigrazione. Ve lo ricordate il gioielliere Parenzo, di quello del caso Stacchio, no? Zancan, sì. No? Come no? È la gioielleria dove avvenne quella rapina. Il signor Zancan. Con sparatorie annesse. Con sparatorie annesse e polemiche sì, che ancora durano. Cioè, è morte del. È morte del rapinatore, di uno dei rapinatori. Il signor Zancan dice che questi qua erano fortunati perché lui li avrebbe stesi tutti. Tutti stesi, signor Zancan, il gioielliere. Sì. E quella sera quei delinquenti che sono stati lì sono stati fortunati che io non avevo l'arma con me, perché da lì non andava più via nessuno, perché ne ho le palle piene. Questa sera spaziamo su mille fronti tutti diversi. Alla Zanzara ieri sera Filippo Facci, a proposito della polemica con Fedez che ha querelato mezzo mondo, politici, giornalisti, vuole 100.000 euro da quello, 200.000 da quell'altro, perché dice che lo hanno sputtanato, perché lo hanno fatto passare come l'istigatore della violenza dei Black Bloc. Facci non ha alcuna intenzione di dare euro a Fedez, dice piuttosto mi taglio il pisello. Ma se anche ce li avessi, piuttosto mi faccio evirare, piuttosto che dargli a uno come Fedez. They told me of those injustices that he had suffered in his life, his wife and kids. Lesbiche nel calcio? Quattro lesbiche a cui non dare un euro? Dice, avrebbe detto anzi il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Vladimir Luxuria, dice che non esistono solamente le lesbiche ma pure i frosci nel mondo del pallone. Sentiamo. Poi questa teoria secondo la quale, diciamo, le calciatrici sarebbero lesbiche mentre i calciatori tutti eterosessuali, sì. Io qualche perplessità sinceramente ce l'ho. Poi cosa significa? Perché tu sai di qualche calciatore invece di quelli maschioni e in realtà omosessuali? No, so di qualche calciatore che non mette i tacchi a spillo solo perché c'è un problema nel terriccio che si infiltrano. Il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico no. La Zanzara. Felice Belloli, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Sentiamo un po' se lo pizzichiamo. Sì, pronto? Pronto? Sì. Belloli? Sì. Buonasera, sono Cruciani, salve. Buonasera, mi dica. Senta, ma qui ci sono varie conferme su quelle frasi che lei ha detto. Senta, ci sono conferme e poi lo valuterà chi di dovere. Guardi, tu, chi dice di no, chi dice di sì, vedremo da farsi. No, però Sonia Pessotto ha detto sì, che sì, se lo, letto, letto, lo so anch'io, lo so anch'io. Se non si dimette lui, mi dimetto io. Ognuno deve fare quello che vuole. Lei non si dimette? Io non mi dimetto. Punto a capo, io lascio fare gli accertamenti possibili e immaginabili. Ma perché non si dimette? L'intero mondo, diciamo, non solo femminile, dice che se queste frasi sono vere, lei dovrebbe dimettersi. Chi le ha verbalizzate le conferma? Come siamo messi? Senta, non mi risulta che sia come dice lei, però ripeto, non rilascio dichiarazioni fin quando verrà fatto tutti gli accertamenti. No, però chi ha verbalizzato le frasi dice che sono vere, le ha verbalizzate. Senta, io non sto dicendo il contrario. Beh sì, se evidentemente... Allora, senta, scusi un attimo, ma chi le verbalizzate? Adesso dico una stupidata, sì. Può averle anche sottoscritte in un modo diverso. Comunque ripeto, io sto dicendo che io non le ho detto e poi dopo tutto quello verrà fuori lo accerterà la procura federale. Per cui chi le ha verbalizzate male? Le ha manomesse? No, l'ho detto lei questo, non l'ho detto io. No, lei ha detto che è un golpe oggi. Io ho detto che è un golpe, non ho detto che è stato verbalizzato male. Beh, il golpe qualcuno lo fa. Allora, ma scusi, ma lei... Scusi un attimo, io ho fatto nome e cognome, io ho detto che per me è un golpe, punto a capo. Ma il golpe di chi? Fatto da chi? Belloli? Allora, non devo dirlo lei per... No, ma certo, per carità, io rispetto tutti, però se uno dice... Se uno dice che... Lo so che lei rispetta me, se lei dice che è un golpe... Ma non sono tenuto a dirlo lei. No, d'accordo, però no, se uno pronuncia queste frasi e poi uno deve dire il golpe è fatto da chi? Ma sento una cosa, ma chi devo dire? Lei? No, ma non deve dire nulla. Basta, stia tranquillo. Che cosa dice la Pessotto che dice che lei deve dimettersi? La Pessotto dica, lei faccia quello che ritiene opportuno fare lei, io so cosa devo fare io, punto capo. Comunque lei ammette che se queste frasi sono confermate è una roba da dimissioni? Senta, vediamo il da farsi, adesso non il se o il dopo, non serve niente, vediamo il da farsi, punto a capo. Però scusi un attimo, lei dice la parola quattro lesbiche, basta dare soldi a quattro lesbiche, non l'ho mai pronunciata, giusto? Giusto. Mai pronunciata, non è mai venuta dalla sua bocca? Dalla mia bocca in questo momento. E chi se l'ha inventata questa cosa? Io questo che mi domando. Ma guardi, a chi se l'ha inventata non è mio compito saperlo o dirglielo. Però so, qualcuno se l'ha inventata. Questo lo dice lei, ma lei sta facendo delle supposizioni che non sto dicendo. Ma scusi, se ha detto... Un attimo, prima di tutto, lei si qualifichi chi è perché non si è ancora qualificato. Sono Cruciani, come no? Io l'ho detto all'inizio. Scusi, ho capito. Allora, senta una cosa, Cruciani. Mi dica. Non facciamo discussione bene. Io le sto dicendo che io ho fatto le mie dichiarazioni all'ANSA ieri, punto. Sì, no, d'accordo. Allora, basta, non andiamo a dire cosa è venuto fuori, cosa verrà fuori. Belloli, lei, anche Tavecchio ha detto delle cose importanti oggi. Tavecchio ha detto sì, punto a capo, penso che la parola sì sia quella più determinante. Lei non si preoccupa, io saprò come comportarmi quando verrà presa decisione del procuratore. Alcuni esponenti politici, in particolare del PD, chiedono le sue dimissioni. E la politica, faccia la sua politica, io non dipendo dalla politica. La idem dice sia rimosso, venga rimosso. Se la idem ha qualcosa da dire, venga a dirlo, per l'amor di Dio. Ma è abilito lei per quello che è successo? Ma la cosa non mi fa piacere sicuramente, non sono un pagliaccio fino a prova contraria. No, e chi ha detto questo? No, chi ha detto questo? Guarda, la mia coscienza è tranquilla. Guarda. La sua coscienza è tranquilla? Basta. Come considera i gay, le lesbiche? Lei senta, facciamo una cosetta. No, è una domanda, è una domanda. Ma lei non si preoccupi. Bellori, ma lei risponda. Ma scusi un attimo, ma io devo dire a lei come considero lei le lesbica, ma mi scusi un attimo. Perché? Di quello si sta parlando voi. Non è che allora, ma lei, senta, non è sicuramente frangente. Io ho delle mie considerazioni personali sulle gay, sulle lesbiche, sono mie personali. Cosa mi fa queste domande? Lei scusi, non si dimetterà mai? Io le ho detto chiaro e tondo che io mi dimetto quando verrò, ci sarà, se verrò condannato mi dimetterò. Condannato per mica è una condanna questa, mica c'è una... Allora cosa sta dicendo? Sia tranquillo. Come risponde alla Pessotto? Se non si dimette lui mi dimetto io. La Pessotto deve fare quello che vuole. Il golpe di solito ha dei mandanti, no? Oppure degli esecutori. Ci sono mandanti ed esecutori di questo golpe. Non le chiedi i nomi, mandanti ed esecutori. Ci sono mandanti ed esecutori? Non devo rispondere alla stampa di queste cose. No, ma non deve rispondere alla stampa, deve rispondere al paese. Lei è un importante dirigente. Ma stia tranquillo, no? Stia tranquillo. Il paese ha altri problemi che non sono questi. Stia tranquillo. Beh, scusi, lei è un importante dirigente del mondo del calcio. Allora, avrebbe detto che non bisogna dare soldi a quattro lesbiche e qualcuno si porrà un problema, o no? Lo pongo il problema, non posso il problema. Lei dice che la frase non è grave, la frase è gravissima. Ma gravissima. Cruciani, scusi un attimo, adesso lei sta andando oltre. Lei mi sta facendo dire che io non l'ho detto. No. Facendo... Come no? Lei mi sta dicendo che io dico che la frase è una grande. Questo ha detto lei, non io. No, no, io per mi... carità. Come no? Allora, stia tranquillo, non faccia delle supposizioni, se no, mi scusi maleducatamente, devo dire, chiudiamo il discorso. No, lei, sta facendo lei no, delle... non facciamo i maleducati, non facciamo i maleducati. Non è il maleducato, mi sto facendo dire cose che non ho detto. No, io ho detto. Io le sto solo dicendo, chiaro e tondo, io quella frase non ho detto, punto a capo. Se poi c'è gente che si dice che l'ho detto e alle prove le porterà chi dovere e vedremo da fare. Ma c'è un verbale. C'è un verbale. Eh sì, ma non mi interessa vedere il verbale. Non l'ho firmato io il verbale, fino a prova contraria. Eh beh, ho capito, il verbale qualcuno l'ha scritto. O chi l'ha scritto è un truffatore. O chi l'ha scritto è un truffatore. Sono tutte cose che sta dicendo lei. Non le sto dicendo. No, ma no, ho capito che non le sta dicendo lei. O allora, basta, non mi faccia dire cose che io non posso, non sono in grado di dirle. Io non so, io non l'ho scritto, punto a capo. Non l'ho firmato, punto a capo. Mi dica lei. No, mi dico io, qualcuno l'ha scritto quella frase, altrimenti da dove esce questa frase sulle quattro lesbiche? Qualcuno l'ha scritto e qualcuno l'ha firmato, vedremo da farsi. Vedremo da farsi, comunque lei conferma un golpe, vabbè. Un golpe, organizzato da chi non si sa. Le auguro una buona serata. Buona serata, grazie. Grazie a lei, buona grazie, sera. Buona serata. Come lotta, mamma come mia. Lotta il signor Belloli. Si è detto quelle era cose talmente bello, una battaglia so che quasi ammutolito, si è rimasto impietrito di fronte impietrito a questo. Impietrito di fronte al tuo incalzar di sciabola. No, vai incalzar di sciabola, a un certo punto non sapevo che dire, perché a un certo punto uno dice è un golpe, ha detto oggi durante qua una trasmissione a Radio 24, sì. Vedo effetto giorno, è un golpe. Uno quando dice è un golpe, poi non è che ci può lasciare così sospesi, perché i golpe sono una cosa importante, i golpe, sì, no? Beh, i golpe si organizzano. Non in Sud America, in altri paesi. I carri armati, amico mio. I golpe, organizzato da chi sto golpe? Hai detto sta frase, perché non è che uno. No. A un certo punto, però, nell'intervista lui dice. Non è che nega totalmente, dice non in quel, poi io l'ho interrotto, non in quel modo. Può darsi pure che la parola lesbica sia uscita fuori. Comunque qualcuno mi segnala che in realtà basta andare. Qualcuno a... mi segnala. No, qualcuno mi segnala su Twitter, non so dove. Gatti, Sibillini. Che... No, adesso voglio dire, non voglio assolvere Belloli, no, perché un dirigente certe frasi non le dovrebbe pronunciare. Però sui campi di calcio, riguardo al sesso e al calcio femminile, se ne dicono veramente di tutti i colori. Ovviamente gli spettatori, ma anche i dirigenti. Però tu ti rendi conto della gravità, se è vero, inaudita di questa cosa? Ma certo, ha dato visto alle... che ha dato no, le calciatrici delle lesbiche, dice che non bisogna dare un euro. Certo. Dovrebbe essere, no, di esempio. Vabbè ragazzi, anche. Fermiamoci qui. Tanta carne al fuoco, dopo il giornale radio 800 24 00 24, chiamate, ciao. Ormai è tutto degradato. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Però tu non dai un buon esempio, tu non dai un buon esempio. Tu sei forte coi deboli e deboli coi forti. Ascoltando la sua trasmissione, noto nella sua persona un continuo tono strapotente e di superiorità. Allora ragazzi, sono stato oggi, Parenzo, sono stato oggi in tribunale a Milano, 2 ore e mezzo di mortacci di Pippo. No. Allora, 2 ore e mezzo per ascoltare il processo a Marione Borghezio per diffamazione aggravata da odio razziale e quant'altro per alcune frasi dette alla Zanzara, le sentiremo più avanti, zanzarologi, eccetera, eccetera. Quando alcuni rom visitarono il presidente della Camera, lui fece delle battute. Che è successo? No, semplicemente un piccolo raffreddore, chiedo scusa. Amico mio, ma c'è il microfono, qua è la radio. Ah, quindi non si può starnutire? Sì, ma è la radio. Chiamo Landini. È la radio. E io chiamo Landini. È la radio. Ma e se uno stranutisce cosa ma deve dai, fare? Dai, su. Cioè uno non deve stranutire? È la radio. ma guardate che lo fanno anche in Germania. No, in Germania non lo fanno. Scusa, ieri Mentana, hai visto colpi di tosse in diretta? Ma che cazzo me ne frega di Mentana? Ma scusa. No, ma che è anche un grande direttore. Vabbè, comunque sono stato al processo a Borghezione, ho fatto la mia testimonianza. No, è a favore o contro? No, testimonianza di quello che è successo, né a favore né contro, testimonianza di quello che è successo con tutto il mondo rom dell'associazionismo rom lì presente. E addirittura Borghezio vuole uscire indenne da questo processo e ha detto, non dico di essersi pentito, di essere rammaricato per le cose che ha detto. Oh, bene, bravo. E più tardi ascolteremo cosa vorrebbero le associazioni rom. Vorrebbero addirittura che Borghezio sfilasse con una bandiera rom, perché esistono anche le bandiere rom. Vedi, sì. Bandiera rom, e beh, cantasse l'inno rom. Beh, mi sembra bravo. Non, non esiste l'inno rom, ragazzi. Sì, certo che esiste, non ma lo sai. Ma che cos'è l'inno rom? No, l'inno del popolo rom, non ma c'è cos'è popolo. L'inno del popolo rom? È un inno che esiste e che io sto cercando di imparare, peraltro. L'inno del popolo rom. Ti voglio dire in più, vedi che la pena sarebbe una pena giusta, questa, come quella che proposi per il professor Taormina quando, condannato per omofobia, dissi, anziché pagare la multa, faccia ancora, gratis insisti. L'avvocato insisti, no, col professore, insisti, è la stessa prof. Cosa che ma proposi, anziché fargli pagare la multa, vada a lavorare gratis per l'Arcigay. Sgarbi contro il candidato, la candidata del candidato, sì, diciamo candidato, non la candidata che mi forro, il candidato che è donna del Movimento 5 Stelle in Liguria, si chiama Alice Salvatore, scatenato il prof, sentiamo. Come diceva Paolo Borsellino, non è sufficiente che ci sia l'innocenza dal punto di vista appunto giuridico, quindi fedina penale pulita, che siamo tutti incensurati, ma bisogna che ci sia anche la parvenza di onestà. Ha detto la parvenza. Sì, abbiamo l'onestà. Una candidata parvenza, presidente parvenza, al Partito Democratico che è indagata per omicidio colposo. Loro hanno il capo del questo loro partito condannato per omicidio. Si odiano il partito, il primo condannato è Grillo, è condannato per omicidio. Chiude il suo partito, siete figli di un assassino, questo siete voi. Figli di un assassino, i grillini. Beh, Sgarbi quando deve tuonare contro Grillo è sempre in prima fila. Lei è condannato per truffa allo Stato e percepisce un vitalizio di 8.000 euro. Io non ho fatto truffa a nessuno, io sono stato senza stipendio, la parola truffa è la perversione di un magistrato. Lei. Stai zitta, cretina! No, studia! No. Fatela parlare questa che parla solo. Le per cortesia, Vittorio, no, l'insulti no. Ognuno dice la sua. Adesso parla Sgarbi, per cortesia, Salvatore. Mi dica qual è la truffa. Siccome la truffa riguarda denaro, io non ho preso una lira, per cui quando dice truffa la dica a sua madre che ha fatto la truffa di fare lei, lo dica, faccia così, parla noi di truffa, studia incapace, studia. Cioè, a un certo punto ha detto la madre ha fatto la truffa di fare lei. Ah, Sgarbone, appena si tocca la questione della condanna per truffa non ci vede più, cioè sbrocca totalmente, sbrocca. È nero su bianco sta condanna. Poi noi, siccome siamo laici qui alla Zanzara, siamo molto molto laici, non è che ci fermiamo alla condanna. È evidente che però bisognerebbe parlare a lungo di questa condanna di Sgarbone, ancora. Io non ho truffato mai nessuno. Allora, sono stato in aspettativa senza stipendio e condannato da un magistrato sicuramente corrotto. Voglio sentire la replica della Alice Salvatore, voglio fare anche una domanda. Il vitalizio non lo percepisco, salame, non lo percepisco, vai a studiare. Beh, insomma, non lo percepisce, lo percepisce, cioè, come non lo percepisce? Siamo arrivati a dire che addirittura non lo percepisce, dai, su. La persona di Beppe Grillo che non si candida e non entra nelle ma è il capo del tuo partito, è il capo di un partito, è meglio che candidato, che cazzo c'è, ma guarda, ragazzi, purtroppo è una questione di morale, a casa non capisca nulla, quindi vado in pubblicità. Siamo qui, 800-24-00-24, Davide da Rimini, Sgarbi sempre numero uno comunque, quando deve attaccare qualcuno, sì, a spada tratta così, non ci vede più. Comunque ragazzi, la condanna per truffa c'è, poi lui la contesta ed è giusto che la contesti. Questa gli faceva notare la condanna, e lui parte al lancia e resta dicendo che loro sono il partito che ha a capo un assassino, che in realtà non è un assassino, ma comunque uno che è stato condannato per omicidio colposo. Davide, vai, Davide. Buonasera. Io volevo parlare del fatto che praticamente la gente quando arriva Salvini chi fa violenza. Io penso che comunque sia il risultato delle politiche, del modo di fare politica che ha la Lega. Perché si è visto anche quando Calderoli indestò... Cioè, non ho capito, tu stai dicendo che è giusto aggredire Salvini? No, no, assolutamente no. E allora? No, loro sanno che facendo un tipo di politica ricevono dei voti, però ci sono le conseguenze. Il loro modo di far politica è molto violento, e queste sono le conseguenze. Quando Calderoli indossò la maglietta delle vignette, provocò 14 morti all'ambasciata libica. Sì, però ragazzi, sì, però c'è una differenza. Davide, qui siamo di fronte a una questione molto semplice. In democrazia non funziona così. Cioè, non se uno fa un comizio e dice come ha fatto Salvini, l'ha detto in una trasmissione, in realtà di comizi ce ne sono pochi ormai, la politica si fa in televisione. Quando uno dice io andrei con una ruspa nei campi rom, cioè abbatterei tutti i campi rom, capisco che possa essere una formazione forte, però è la politica. Significa sostanzialmente che lui vuole eliminare i campi rom, con le buone e con le cattive. Poi non è che ha detto che domani va là e uccide tutti i rom. Ma dopodiché, ma queste persone qui che vanno ad aggredire questi quattro gatti, questi quattro imbecilli, coglioni, deficienti, testa di cazzo, che vanno ad aggredire Salvini, ma lo direi di chiunque altro, anche quelli che vanno ad aggredire Renzi, anche quelli che vanno ad aggredire non so chi, eccetera. Che però... vanno e sono dei perditempo, dei perdigiorno. Ma dove cazzo vai ad aggredire Salvini? Ma vai a lavorare, ma perché quello vuole fare il comizio, tra l'altro ci guadagna pure lui, in voti. Cioè, non hanno capito me. Questi qua che lo fanno lo rendono una vittima e dunque prende voti, lo rendono più, sono degli talmente cretini, talmente imbecilli. Però è legittimo contestare Salvini, questo diciamolo, dicendo che è una cosa calcolata per loro. Loro prendono voti in questo modo qua, in più risultano come vittime. Sì, no, ho capito, ma certo che risultano come vittime. Se tu vai là ad aggredirli, a sputare, eccetera, risultano come vittime, sì. Io non ci andrei, io ho tante cose da fare durante il giorno, anche i cazzi miei, oltre che il lavoro. Questo che non vado in piazza a sputare a Salvini. No, se tu perdi tempo per andare a sputare, se non peggio, Salvini, sei un coglio. Ma lo vogliamo dire o no? Se vai in piazza a perdere tempo ad aggredire quello, ad insultare quell'altro, un discorso, a manifestare contro Salvini, a manifestare, se vuoi andare a manifestare, se vuoi perdere tempo ad andare ma a manifestare per, contro adesso, uno no, questo non mettere tutto insieme, sputare, aggredire, questo è una vergogna e non si fa. Manifestare contro, ma questo mi sembra doveroso oltre che legittimo. Ma sì, ma uno carità. Può manifestare come vuole, non è un perditempo. Va bene, Antonio Bari, vai. Ciao Cruciani, senti, ascolta, io ti stavo chiamando. Noi ci dobbiamo solamente vergognare di essere italiani. In che senso? Per un semplice motivo. Andiamo dietro a tutte queste chiacchiere qua, Salvini viene sputato, non viene sputato. L'anno scorso sono morti 170 persone italiane. Io sono Sì, abbassa la radio però, chiudi la radio, amico mio, sì. Dai. Sono un imprenditore, sono morti 170 italiani, si sono suicidati. Vabbè, questo lo sappiamo, che vuoi dire con questo, amico mio? Che vuoi dire? Che cosa voglio dire? Voglio dire che non dobbiamo andare a fare una polemica sulle chiacchiere quando la gente. Qual è non la polemica mangiare. Su che cosa? Sulle lesbiche, dici tu? Ma sulle lesbiche gay che cazzo vogliono fargli? Gli vuole dare i soldi, glieli dà, se non li vuole dare non glieli dà. No, io capisco che non è una polemica, come dire, che fa non riferimento al portafoglio degli tu italiani. Sei una persona molto intelligente. No, ma Antonio, scusa, ma di che stai parlando? Qui c'è un dirigente importantissimo del calcio italiano che ha detto, per carità, lo possiamo pensare tutti nelle nostre fantasie o nei nostri pregiudizi, che chi gioca a pallone e fa calcio femminile si è sempre detto magari ha qualche tendenza mascolina, dunque lesbica, ma chi se ne frega, queste sono le chiacchiere che possiamo fare noi. Quando un dirigente va in una riunione e dice basta dare soldi a quelle quattro lesbiche, è un imbecille o no? Sempre se l'ha detto, naturalmente. È imbecille al 100%. E allora basta, adesso... Ok, ascolta, aspetta, però questo, alla fine della fiera, bisogna avere sentito che cosa ti ha risposto. Io non l'ho scritto, io non l'ho filmato, alla fine, come tutte le cose in Italia, non si troverà mai chi l'ha detto. Ne sei d'accordo? Ma non lo so, può darsi pure che non si trovi. Infatti in questo caso adesso si andrà a vedere chi ha scritto il verbale, come l'ha scritto, come non l'ha scritto, conferme, quello dice di no. Avete sentito prima Belloli da noi, no? Fermi tutti, forse. Ottima trasmissione, sempre la migliore. State ascoltando un programma offerto da AET Italia, l'energia elettrica per imprese e reseller. Visita il sito aetitalia.net. La Zanzara. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Ma lo vogliamo dire, Parenzo, che le frasi del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, questo Belloli, che fino ad oggi non conosceva nessuno, diciamo la verità, no? Cioè chi conosceva questo Belloli? Gli addetti ai lavori, chi nessuno, lavorava con nessuno. Lui? Sì, diciamo il grande pubblico non lo conosceva, ed era meglio, diciamo, forse anche per lui che, sì, no, che questa notorietà non fosse così, non fosse uscita fuori in questo modo così clamoroso. Comunque va bene, questo Belloli sembra un po' una, e sembra, se avesse detto quelle frasi, una specie di novello taormina, no? Cioè un taormina a scoppio ritardato. Sì, sì. Che non si offenda il prof, eh. Alberto da Modena, vai, 800 24 00 24. Alberto Cruciani, buonasera e grazie. Dimmi Alberto, ascolta, dimmi, non mi ringraziare. Ascolta, io ho sentito Belloli quando lo hai definito un lottatore. E vabbè, lotta, e poi lotta, però può anche darsi che non abbia tutti i torti. Cioè in che senso, scusa, amico mio, che gli hanno fatto il trappolone? Fatto un trappolone, ma per poi cercare di dimostrare quello che forse in realtà è, perché tu tempo addietro hai sostenuto, a giusta ragione, che ci possa essere omosessualità nel mondo del calcio e quindi di conseguenza omosessualità in tutti gli sport di gruppo. Sì, ho capito, ma questo non c'entra niente, non è che ha detto nel calcio femminile ci sono lesbiche, ha detto basta dare soldi a quelle quattro lesbiche, cioè quattro ha detto lesbiche, quelle quattro lesbiche, cioè sì, perché per sottinteso ho voluto intendere che nel mondo del calcio femminile, soprattutto di gruppo, quando tu dici a quattro, adesso ragazzi intendiamoci bene, se quella frase fosse confermata, esatto, se l'ha detta l'ha detta per in senso dispregiativo, non è che ha detto sai, sì, nel mondo del calcio c'è sicuramente qualche ma come no, non lo voglio difendere Belloli, no, ma io dico se l'ha detta in senso dispregiativo, ha sicuro detto per forza, cioè, basta dare soldi a quelle quattro lesbiche, siccome sono quattro lesbiche alla fine ste calciatrici, no, perché dobbiamo dare i soldi, ragazzi, quello è virgolette alle quattro signorine che giocano al calcio. Beh, ecco, no, veramente non ha detto così, insomma, questa è la tua interpretazione, ecco. Lo so, perché è un'interpretazione benevola, perché ad esempio meno che tu pensi che tutte le donne che giocano al calcio siano lesbiche? No, ma che in seno a una squadra bastano che siano due, quello, e siamo a posto. Cosa quello che vuol dire? Ma che c'entra con le frasi che ha detto? Cosa? È come dire queste quattro femminucce, insomma era offensiva, ma non mi sembra che bisogna spiegarlo. No, Palenzo, per amor del cielo, per amor del cielo. Ma se non fosse stato offensivo, anche lui l'avrebbe difesa, no? Invece siccome si rende conto che è offensivo, ha detto che non l'ha detto. Ma mi sembra talmente ha voluto sminuire tranciandole. Vabbè, Alberto, secondo te non è così grave questa frase? Alla fine non è così grave? No, non è grave perché ha trastato il fenomeno che può essere anche in seno a uno sport di gruppo femminile. Ma non ha solamente fatto la fotografia di un fenomeno, ha detto basta, avrebbe detto, perché sennò poi questi si incazzano, avrebbe detto basta dare soldi a quattro lesbiche, il che non è proprio, ragazzi, a me non me ne frega niente, uno deve essere anche politicamente scorretto, va benissimo, però lo posso fare io. Ma questo è uno dei dirigenti del lo sai quanti iscritti ci sono alla Lega Nazionale Dilettanti, fanno un sacco di soldi, sono centinaia di migliaia. E allora di che parliamo, dai, questo soprattutto qua col settore giovanile. Guglielmo da Bologna, ciao Alberto. Guglielmo, buonasera. Dimmi. Io credo di aver colto una certa contraddizione nel pensiero di Parenzo. Cioè qual è la contraddizione? Credo ieri sera o l'altra sera, perché qualcuno, credo scherzando, ha insinuato che fosse o gay o omosessuale, no? E lui, che sembrava davvero un po' risentito, no, perché non è il mio, ha detto non è il mio, io sono etero, adesso sono io etero. Sono etero. Certo, ma siccome lo diceva in senso dispregiativo, no, come no, però io ho colto, se uno mi dà una lei ha colto male, perché evidentemente non sa, naturalmente con Parenzo coglie sempre male, non sempre, è solo il suo pensiero che funziona, lei fa l'esegesi al mio pensiero, io solo mi hanno dato una qualificazione che non corrisponde alla realtà, essendo io notoriamente da sempre eterosessuale. No, però quando ti dicono gay, tu un po' ti offendo, perché lo dicono, come dire, in modo offensivo, no? Cioè non è che lo dicono fai star zitto quel gay, cioè capisci in che senso lo dicono? Non è che lo dicono per ma non lo sono, dopodiché. Va bene, Guglielmo, ciao. Francesco, provincia di Lucca, vai. Non lo reputo offensivo. Francesco, provincia di Lucca, vai, dimmi. Pronto? Sì. Amico mio, parla su. Vabbè, non si sente niente, dai. È Paco da Brescia, vai. Pronto? Uno. Dimmi. Ascolta, io devo dirti due cose. Sì. La prima ti devo mandare a fanculo tu e i tuoi amici leghisti. Sì. No? La sì. prima. Sì. Perché voi siete talmente... ma ti rendi conto? Ma qua... ma stiamo scherzando. Noi stiamo vivendo... che paese stiamo vivendo? Non ho capito. E mi mandi a fanculo e insieme leghisti. Ai miei amici leghisti. Benissimo. Ecco, perché tu sei un leghista. Ma io non sono affatto leghista. Io, sono, leghista, io sono Giuseppe Cruciani e non me ne fotte nulla né della Lega né del PD né di Forza Italia. Non è vero. È allora, ha sentito parlare? Sì. Ma io sono anni che ti ascolto, no? Sì. Ha sentito parlare? Sì. Sono sempre le stesse cose. Sono sempre le stesse allora, cose. Allora tu vuoi rispingere gli immigrati? Sei contro l'immigrazione? Io sono contro allora, l'immigrazione dire, clandestina allora, e tu. Sono a favore dei respingimenti perché sono la cosa più umanitaria. Sono la cosa più umanitaria che si possa fare. Ma hai capito che non devono respingere tutti? Respingimenti è il più grande gesto di umanità che si possa fare: è respingere un profugo, è respingere un immigrato. Un profugo, assolutamente. Il più grande scappa dalla guerra. Io chiamo per parlare con te, tu non me lasci parlare. Tu devi sempre parlare. Marco, stai parlando, dimmi. Dai, ma no, Marco, stai parlando. No, mi lascio finire una frase, poi vabbè, dimmi, avanti, parlare. Cioè, sì. Fammi piacere cursare, fammi dire due cose. Peraltro parla anche un italiano perfetto, migliore dei leghisti, per cui fallo parlare. Ma a parte questo, no? Ma io sono l'unico immigrato che ha difeso Parenzo a Radio Padania. Ma scusa, mamma, che cazzo fratello. Me ne frega di questa cosa? No, scusa, lascia parlare. Non ho capito, ma a me che me ne frega? Cosa me ne frega a me? Cioè... aspetta, no, ma se non frega me, aspetta. Però io... una cosa detta ieri da Parenzo non sono d'accordo, posso dire che non sono d'accordo. Meno male, puoi dire quello che ti pare, dimmi. Allora sì, tu e l'equiste non capite, non sapete neanche cosa vuol dire un immigrato o un straniero. Siete degli ignoranti. Vabbè, però dimmi, dai, forza, vai al sodo, amico mio, non possiamo sentire tre ore di questo intervento senza che abbia un senso, dai. Che cazzo è un immigrato? Cos'è un immigrato? Cos'è un immigrato? Ma qui non è un simposio di filosofia, non è un convegno internazionale. Cosa è un immigrato? Hai iniziato. Allora, mi hai dato della testa di cazzo, mi hai mandato a fare in culo. Quel pezzo di cazzo leghista come te, come Bidonci non so come Bidonci è il sindaco di Padova, sì, allora Bidonci, non so che cazzo, no? Ma voi siete fuori di testa. Ma io vivo, allora, io vivo a Belluno da 20 anni. Ok, io ho sempre lavorato. Scusa, ma perché 20... no? Ma perché non vai a contestare Salvini pure? Perché non li sputi in faccia? Ma perché devo andare a contestare quel pezzo di cazzo là che ma stiamo scherzando? Ma io non ho tempo da perdere con questi lavora, qua. Mi lasciano votare. Sì, io voto, perché non mi lasciano votare? Allora io chi vivo qua da 20 anni, sono 20 anni che lavoro, che pago le tasse. E allora ma okay? Che c'entra? Ma chi ha detto? Ma cazzo, ascoltami, se io ho la casa in proprio, i miei figli nati qua. Allora, perché ma io non ho capito che cosa vuoi da io non ho capito che cosa vuoi da me, però. Cioè, ancora non l'ho capito. Ma perché tu sei una razzista, tu sei uguale. Ma razzista sarai tu. Ma razzista sarai tu. Io sono a favore di quello che fa l'Australia. Respingimenti uguale umanità. Ma che cazzo male. Sono la gente che respingimenti dalla guerra, uguale come umanità. Scappa dalla guerra. Respingimenti uguale umanità. Ciao Paco. Stiamo scherzando? Ciao. Apprendiamo dalle agenzie di stampa, caro Parenzo, che il sindaco di Padova, Bitonci, ha rinunciato alla sua fiaccolata anti-immigrati insieme ad alcune associazioni di commercianti. Una manifestazione che doveva arrivare a casa della nonnina di 90 anni che ha ospitato a casa sua 6-7 profughi. Ma ti rendi conto cosa fa il primo cittadino di quella città? Però io proverei cioè, a chiamare. Cioè va contro un suo... Ah, no, vuoi chiamare? No, proverei a chiamare, non no, Bitonci. Ma poi torniamo sulla Bitonciata. Ma tu fai quello che ti fa. Puoi dire ma non quello fai che quello che... Siamo a livelli di una gravità inaudita, cioè il sindaco vabbè, contro un suo cittadino. Un suo cittadino di 90 anni che vuole ospitare 6 profughi e gli fa il corteo sotto casa. Ma qui è un atto criminale questo qui. Allora qui abbiamo un signore. Chiama il prete quello che fa la fiaccolata. Don Luca Favarin, brava persona, ieri sera credo che sia stato anche a servizio pubblico Don Luca Favarin, sì. Il quale si oppone ferocemente a questa linea di Bitonci, che è quella di no profughi, no immigrati a Padova. Ha organizzato una controfiaccolata, poi quello ha rinunciato alla sua. E insomma, secondo me è uno molto pepato, su Bitonci, sull'immigrazione. Vediamo un po', io proviamo a chiamarlo, non lo so se lo pizzichiamo. Sì, pronto? Sì, Don Luca, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera alla Zanzara, come sta? Salve, bene, buonasera. Senta, abbiamo saputo che Bitonci ha annullato la fiaccolata di stasera. Quella anti-immigrati. Sì, ecco, notizia confermata, sì. Ma come mai, secondo lei? Sarebbe andata poca gente esatto. quella. evidentemente. Dunque la giustificano con infiltrazioni pericolose, teppistiche, ma sono tante bufale. E lei come giudica Bitonci, un razzista? Quando un amministratore locale si pone di fronte ad una casa indicando il luogo dove sono presenti delle persone immigrate, in questo momento richiedenti asilo, quindi soggetti tutelati dallo Stato italiano, sì, e quando viene proclamato un citofonate clandestini, probabilmente le scelte non sono certamente democratiche. Riteniamo in questo momento è che sia un gesto altamente offensivo, se non criminale, tanto che il sindaco aveva minacciato di querelarmi. E la nostra risposta è la preparazione di una denuncia nei suoi confronti per istigazione all'odio razziale, oltre che per violazione della privacy. Cioè, scusi un attimo, lei considera questo sindaco pericoloso? Io considero questo sindaco pericoloso nelle affermazioni che lui fa nei confronti dell'immigrazione e nei confronti dei padovani, nel senso che l'immagine che passa di Padova in questi giorni a livello nazionale non credo sia un'immagine bella, accogliente, arricchente di una città del nord-est d'Italia. Emerge l'immagine di una città chiusa, ottusa, razzista, per tratti anche violenta, per tratti offensiva. Scusi, secondo lei prima se ne va meglio è? Probabilmente non è la scelta più bella, più corretta per Padova. Vorrebbe un altro sindaco. Diciamo che questo sindaco non corrisponde alle mie idee, ai miei pensieri. Se io parlo alla gente che è stanca, se io parlo alla gente che è arrabbiata, toccando alcuni punti che mediaticamente sono vincenti, che se toccano la pancia della gente e fomentano la rabbia, sulla rabbia sì, a furor di popolo, ma siamo capaci tutti, insomma. Scusi, ma è vero che lei quando va per strada la gente è incazzata? Sì, io trovo gente che vado per strada, mi sputa addosso o sputa per terra dove passo, mi punta il dito in faccia dicendo ricordati prima gli italiani, dopo i negri, e cioè si sta ritornando a un clima che è di altri tempi, di negatività nei confronti e di chi è la colpa? La colpa lei rischia per colpa del sindaco? Io rischio per colpa di questo clima portato avanti da determinate forze politiche, da determinate persone. La Lega, capito Parenzo? No, ha perfettamente ragione il Don. Io al Don esprimo la mia solidarietà. Io sono padovano, adesso vivo a Roma. Quello non è il mio sindaco, non è neanche padovano peraltro perché è di Cittadella. Ha creato un clima di odio e noi dovremmo ringraziare questo Don che ci ha fatto capire cosa vuol dire essere cittadini prima di tutto. Vabbè. No, adesso non stai facendo il comizio, però stai facendo un comizio. Tu devi ringraziare anche tu che sei un essere umano. Ma io sto ascoltando no, no, e tu sei un essere umano. Io faccio il giornalista, umano, non faccio il coso. E come quel faccio sindaco il conduttore. Ha avuto quel sindaco ha atteggiamenti criminali. Scusi un attimo, Bitonci dovrebbe accogliere qualche clandestino a casa sua? Ma secondo me ogni parrocchia dovrebbe farlo, ma non clandestino immigrato richiedente asilo. Ogni persona, ma ogni sono parrocchia, ogni casa comunale sarebbe un gesto profetico e una persona che conosce le storie drammatiche di queste persone certamente non userebbe termini come ruspe, come respingimenti, come fuori dalle palle o queste cose qua. Senta, ma in realtà chi usa questi termini è soprattutto il leader della Lega Nord, Salvini. Lei che considerazione ha di Salvini? Un razzista? Probabilmente lui ha una sua intelligenza che lo porta non ad essere razzista ma a suscitare atteggiamenti razzisti. Se lei guarda tutti i commenti ad ogni dibattito promosso dal leader di quel partito, tutti i commenti di tutti i sostenitori sono commenti a volgari, fortemente razzisti. Ma se governasse l'Italia sarebbe un disastro? Sì. Un disastro assoluto, eh. Ma non c'ha qualcosa di, che ne so, di, cioè quando lo vede e quando lo sente parlare soprattutto, che ne so, di satanico? La cosa che a me un po' suscita esatto questa sensazione è il fatto che appunto non tanto quello che lui dice ma quello che lui suscita. Cioè? Cioè tipo Satana? Nel senso che poi le sue parole come vengono percepite dalla gente. Una persona che è arrabbiata perché ha perso il lavoro, una persona che non ha la casa, una persona che in questo momento si trova in una situazione di difficoltà e sente un leader politico che convoglia la causa di questo male negli immigrati, perché i soldi che prendono, che diamo agli immigrati, se fossero usati per gli italiani il mondo cambierebbe, è indubbiamente una, sono parole che dividono, che creano divisione, questo e questo ovviamente è un male. È un male. Scherziamo. È un male, però secondo lei c'è qua, lei è un religioso, ci trova qualcosa di demoniaco in tutto questo? Beh, la parola diavolo significa divisore. Cioè il diavolo divide, il diavolo divide. Dunque c'è sicuramente del diavolo in Salvini. Le parole che lui dice suscitano indubbiamente rabbia nelle gente. Ci vorrebbe un bel esorcista, ecco, no o no? Che dice? Possiamo trovarne, ce ne sono, sì. Ce ne sono. Un esorcista farebbe bene a tutti, eh. Un Parenzo, dimmi. No, mi pare una persona molto, molto per bene questo prete. Mi pare una persona molto per bene che ha risvegliato la coscienza di una città. Aridaglia, col comizio. Perché quei quattro razzisti oggi non sono andati in piazza, perché per fortuna sono quattro razzisti. Perché chi protesta contro l'immigrazione clandestina è razzista? Non ho capito. No, non è chi protesta. Cioè chi non vuole i profughi nella provincia di Padova, che sono... No, non è questo. No, non è chi protesta. Non si può fare la fiaccolata antiprofughi. Per Parenzo non si può fare. E anche per Don... Per Don Favarin non si può fare una fiaccolata contro i profughi. No, per carità, la fiaccolata, ognuno ha la libertà di fare nella vita quello che crede opportuno. Cioè, certo che la trovo in una cosa culturalmente avvilente. Va bene, Don, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Allora, andiamo in provincia di Pescara. Francesco, vai, forza. Pronto, eccomi. Dimmi, Francesco. Buonasera. Volevo dire che non è giusto che Salvini venga aggredito. È giusto o non è giusto? Non ho capito. Non è giusto. È nell'ordine delle cose. È nell'ordine delle cose che venga aggredito. Cioè ci sono quattro coglioni dei centri sociali o di non so che cosa che non hanno niente da fare. Un coglione. Vabbè, questa è la tua valutazione di Salvini, che è un coglione. Io la rispetto. Alza i toni. Allora quello deve essere uno. Alza i toni, deve essere picchiato. Rischia di essere picchiato in quale paese? Ma dove vivi? In un paese che non a ha casa tua. A casa tua. In Italia non ci sta il consiglio civico. Come se uno facciamo la religione invece di fare il consiglio civico, invece di intervistare un professore di diritto. Ma che c'entra? Il prete è professore di diritto. Come che c'entra? È come se uno mi insulta, io prendo una pistola e sparo. Uno mi insulta per strada, io prendo una pistola e sparo, no? Cioè è uguale. Certo, se lei è ignorante lo fa. No, ma ho capito, appunto, siamo ignoranti su questo appunto, punto di vista. Appunto, è quello che dico io. Se fosse dirigente non farebbe politica così. Gli piace dei soldi politico e lo fa così per avere un posto. Io ero sicuro che c'era un sacco di gente, Parenzo, che siccome Salvini dice le ruspe, la Fornero, eccetera eccetera, dice beh insomma in fin dei conti poi se le va a cercare, no, si va a cercare gli sputi e gli assalti di quattro stronzi dei centri sociali. Questo non me lo sentirai mai dire, Franco, questo. Da Padova no, non ho detto contestarlo questo. Hai detto che Bitonci è un criminale quasi, cioè ho detto che facendo un fa atto... una politica criminale Franco da Padova. Beh, dai, sai, se tu hai un concittadino che l'hai detto Franco da Padova, ma per me è un crimine quello che uno commette, cioè un'istigazione all'odio, violazione della privacy, mi pare un crimine. Franco credo. Da Padova dopo la non esiste questo crimine, la pubblicità. Secondo me no, è politica. Sì, pubblicità, quello che è. Ragazzi, veramente siamo messi male. Siamo alla frutta. La Zanzara. Popolo della radio, il numero di telefono per entrare 800 24 00 24. Roberto da Milano, vai. Sì, Bruta, mi senti? Dimmi. Sì. No, grande, dai, io ti seguo da 2006, più o meno, o forse anche prima. Vabbè Roberto, dai, forza, vai veloce. Volevo punticchiarvi un pochettino, visto che il programma si chiamava forse La Zanzara, ad oggi direi La Scorreggina. Dai Roberto, su, non mi rompere i coglioni, dai, con queste stronzate, dai. No, scusa, volevo semplicemente dire questo, che sostanzialmente nella società dei generi in Italia adesso emergono i giornalisti mediocri. Voi non lo siete, fate finta di esserlo. Detto ciò, direi semplicemente. Io veramente non capisco come uno possa perdere del tempo. Ah. Possa perdere del tempo per intervenire e dire queste stronzate. Ma sì, ma perché. Guarda, e dire queste stronzate. Voleva abbandonarvi da anni. Ma se non riesci ad abbandonarci, vai a fare una cura disintossicante da qualche parte. Ma purtroppo non esistono le cure disintossicanti della Zanzara. Non c'è farmaco. Perché molti ci provano, non ci ascoltano qualcos'altro. Dopo un po' vomitano, o dopo un po' è indifferente quello che ascoltano. Sudano, no, io ho visto uno che si è iniziato a tornano qui. Ma è normale, perché qui c'è la verità, siamo genuini, non siamo finti, non ci sono monete finte qua, non c'è, non si spacciano finzioni, a un certo punto hai detto, non siamo i tarocchi che fanno da qualche altra parte, perché in altre parte fanno cose tarocche, noi non ne facciamo di cose tarocche, è tutto vero. Il conduttore ti sto facendo parlare, cioè le persone che intervengono qui sono vere, cioè i pazzi, le persone che dicono la loro, quelli che ci mettono la faccia, quelli che ci mettono la pancia, purtroppo sono veri, sono veri. Posso dire purtroppo anche. No, io non dico purtroppo, sono veri, perché sono anche i nostri ascoltatori. Da altre parti, per inventarsi una storia, vabbè, devono pagare. Ma no, altri, uno l'ha fatto. Io non dico niente, non ho fatto riferimenti, non c'è bisogno. Da altre parti ho detto. No, da altre... uno, un oddio, signore. No, se, ma devi stare tranquillo però, devi stare calmo. Non ho pronunciato la parola Mediaset, tu dunque devi stare tranquillo. Chiaro che alludi ho detto, a quella no, storia. No, ho detto, da altre parti, cioè, per inventare. Un signore che ha fatto il tarocco. Da altre parti, ho detto, per mettere in piedi una roba. Io ho detto, da altre, come nei migranti, non c'è niente da fare, nemmeno se non pronuncio Mediaset, ma no, non ci riesci, non ce la fai. Ma è chiaro che alludi a nemmeno quella roba, se, lì, anche tutta, se non la pronuncio, mai. Ho detto, ma qui, no, ma quindi se lo credi, vabbè, dilla tutta. Roberto Damiano, io non volevo tornare su quella cosa. È una Roberto, non mi interessa. Se alludi, dilla tutta. Qui non ci sono falsi. Di che è una persona. Stavo dicendo una cosa, stavo dicendo, è stata cacciata dalla stessa azienda. Stavo dicendo una cosa che non c'entra niente con quella cosa lì, ma tu sei talmente supino che non c'è niente da fare. Roberto, beh, insomma. Ma siccome alludi, Roberto, dai, tu hai il modo di alludere e quindi sì, ma non sei l'amministratore delegato di Mediaset, no, ti voglio segnalare. Questo, ma proprio per questo. Roberto, vai, sei siccome... un semplice collaboratore che dovresti esattamente anche... ecco appunto, Roberto, e siccome vai. Sono un collaboratore, mi sento che è come se accusassi anche me. No, non accuso te. Non no, accuso ma non nessuno. Non puoi alludere o dici direttamente Roberto, quel dai, che vai, pensi, vai, chiudiamo questa ridicola discussione, dai. Ma no, non vai, puoi alludere. Roberto, non sto alludendo a nulla, Roberto. Sembrava. Ecco, bravo. Mi piacerebbe andare a fare. Ma proprio alla grande, Roberto, ma sembrava detta così. Ma non ti preoccupare. Santa Maria Rossa di Garbagnate Milanese. Sì. L'ho vissuto per anni vicino a un accampamento, siamo diventati anche amici con i zingari cosiddetti, che poi alla fine, vabbè, allora, ma che vuoi, vabbè. No, dico semplicemente al PDellino, che poi già mi stanno qua, che è Parenzo, perché lui porta via i voti al PD esprimendosi in questi termini, voglio dire. Ma io non devo né portare né portare via, né portare né portare, no, portare via, perché li fa scappare dal PD e fare avanti. Vabbè, allora non è che la cosa mi interessa, no, più molto. Che altro che si concentri un pochettino allora anche sugli abitanti di Hebron, i palestinesi, con quella stessa grinta con cui difende poi, diciamo. Vabbè, ma adesso i palestinesi non c'entrano niente, dai, un altro tema, è un'altra discussione, un altro mondo, un'altra cosa che non c'entra nulla né con i rom né con l'immigrazione, è una puttanata. Andrea dalla provincia di Alessandria, quella che hai detto è una stronzata. Andrea, provincia di Alessandria, dai. Ciao Cruciani, complimenti per gli stecchetti rock che sono deliziosi, bravo. Vai, vai, dimmi. Senti, solo una cosa, io spero, nonostante sia simpatico Salvini, che non vada mai su, perché se per caso dovesse mai progettare il suo programma, sarebbe la sinistra in piazza a scatenare la furia e il paese non può sopportare e tollerare più una situazione non ho di capito. Trauma. Scusami, non ho capito, perché non vuoi che Salvini... No, non che non voglio, lo vorrei perché tutto sommato mi è simpatico, ma se dovesse mai per caso prendere, diciamo, il potere nel senso democratico della parola, ci sarebbero quel signore prima, il clero, il bigotto che ha parlato, ci sarebbero il compagnero, tutti nella strada, i centri sociali a fare una rivolta, anche se loro avessero sotto casa i neri che gli fanno la cacca sotto sullo giardino di casa, pur di dare contro alla Lega o chi è che vuole fare un qualcosa per il paese, per regolarizzare questa invasione, sarebbe un macello il paese. Ciao, nella giornata di oggi a Napoli un signore migrante ha fatto una strage sparando da una finestra, uccidendo 4 persone, e di questo ovviamente è normale che succeda. Un non migrante, armato, non c'entra niente, quello sono fatti assurdi, legati a cosa? Di uno che ha sparato, non so, al appunto, cognato, alla cognata, caso, sono cose familiari, ma che c'entra? Guarda caso, familiari, insomma, è un fatto gravissimo. Ma no, credo, sì, ma no? Certo, ma che cosa c'entra con l'immigrazione? Armato, mischi due cose insieme. Non ha nulla a che vedere, ma dico, lo scandalo che desta un un fatto delittuoso commesso da un migrante è infinitamente superiore a quello di un signore che a Napoli spara i passanti dal balcone, uccide 4 persone, fa 6 feriti e poi dice ho fatto una cazzata. Metti insieme cose che non c'entrano assolutamente nulla. When you've done all your running, run to me. Allora, continua la grande inchiesta della Zanzara, ma soprattutto la grande campagna, direi, della Zanzara sui cognomi da cambiare, caro Parenzo. Il ritorno dopo qualche settimana, devo dire, perché insomma i nostri funzionari comunali si erano stancati di ricevere insulti. Però si è messo in moto un funzionario, diversi funzionari sono messi in moto perché si è scoperto che in alcuni comuni ci sono delle persone che hanno come cognome Zoccola. Ora, va bene tutto, no? Ma tu ti puoi chiamare Zoccola di cognome? Cioè, se tu ti chiamassi Zoccola, tua figlia Margherita, com'è che si, scusami se te lo dico, ma ho pronunciato il nome, scusami. Mia figlia si chiama Viola. Se uno si chiamasse mia figlia Viola Zoccola, qualcosa fai, no? O no? Mi porrei il problema. Ti porresti il problema o no? Ma no, forse mi bello. Più per te che più per tua figlia che per te. Cioè tu, David Zoccola. David sì. Zoccola. Dice, vabbè, sono abituato, me lo sono poi tenuto. A Napoli, ad esempio, vuol dire topi. La Zoccola a Napoli è il topo. Ma chi t'ha detto a te? Te lo dico io. Chiedi agli ascoltatori napoletani. Comunque, se c'è uno... una Zoccola, non c'è un topo, sono i topi. Quindi dipende anche dove abiti, ad esempio. Anche sì, però non è bello. Non è bello, dai. Non è bello. No, vabbè, non è bello, però se è il tuo cognome. Non è bello, non è bello. Non lo so, non mi sono mai posto il problema, per fortuna. Sentiamo che è successo. Sì, buonasera. Parlo con Zoccola Dora. Sì, chi vuole? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Sì. Per una questione d'immagine, il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi giudicati, per così dire, sconvenienti. Sì. Come il suo, signore. Quindi la chiamo. Io volevo cambiarla, ma dato che sono anziana, molto anziana, ho 82 anni, se ero più giovane subito dicevo sì. E cerchiamo di cambiare i cognomi che, come lei può capire, sono... sono orribili. Sì, in effetti sono imbarazzanti. Ma che mi succede? Che io sono una persona per bene, delle volte la notte sono questi ragazzacci, chiamano, fanno gli scostumati, non le dico le porcherie. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune. Elena Zoccola? Sì. Ci sono alcuni cognomi giudicati inopportuni, imbarazzanti e per una questione di decoro, diciamo così, andrebbero modificati. Perché mazza cagnavo con un cognome, non lo so. Onestamente Zoccola è un cognome un po' imbarazzante, ecco. No, ma se mazza cagnavo un cognome, per tanti anni che è nato, no, ma per me non mi conviene. Non ci rompere la cazzo. Chiamo dal comune, non mi chiuda il telefono. Non mi chiuda il telefono. Io voglio sapere, ma che cosa vogliono? E le spiego. Sì, le spiego. Mi perdoni, posso parlarle senza che lei si arrabbi? No, già sta nel bus. E stiamo cercando di modificare i cognomi che sono giudicati un po' sconvenienti. I miei figli l'hanno cambiato, io no, ti devo dire la verità. I miei figli l'hanno cambiato tutti, indistintamente. E non si chiamano più Zoccoli, ma si chiamano Zuccoli. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune, signora Zoccola Anna Maria. Il comune ha stanziato 1.000 euro per coloro che hanno intenzione di cambiare cognome e ci riferiamo naturalmente a categorie di persone che hanno cognomi per così dire imbarazzanti, sconvenienti come il vostro. Quindi lei sarebbe disposto? Io sono fiera del mio e me lo tengo finché campo, va bene, il mio nome di Zoccola è, ma non è che faccio la prostituta, io ho il nome così e basta. Ma in casa Zoccola. Beh, però io capisco uno che lo voglia mantenere, Parenzo, dopo tanti anni, eh. diciamo che se a me mi offrissero, se mi chiamassi Zoccola, mi offrissero 1000 euro, ma accetterei subito, immediatamente, o no? Dipende, magari è una nobile tradizione, magari c'è anche ma dov'è la nobile tradizione? Ma quale nobile tradizione? Sui cognomi si può scrivere e sapere. Vabbè, andiamo in provincia di Monza. Marco, ma esiste ancora la provincia di Monza in Italia? Rendi conto? No, ma oggi ho letto sui giornali, è una delle ultime che ha fatto, una delle tante cazzate che ha fatto il centrodestra in Italia. La Lega fa la leggo dai giornali di oggi, abbiamo tralasciato questa cosa, ma un po' chi se ne frega, ma si sapeva che in realtà i costi delle province sono aumentati in Italia. Cioè i costi delle province sono state abolite, cioè gli organi elettivi, ma in realtà i costi sono aumentati. Cioè non si può cambiare nulla in Italia, nulla. Marco, vai. Sì, io volevo dire che secondo me invece Salvini ha ragione Su tutto che quello cosa? Che dice, soprattutto sui rom e sugli immigrati. Vabbè, se uno interviene e mi dice per me Salvini ha ragione, ma allora di che discutiamo? Basta, ok, registro questo. Vai. Mi fai parlare? Parla. L'unica cosa è che non vede il business con questa gente qua, capito? Tipo con i rom, si potrebbe anche guadagnare con questa gente qua. C'è chi ci ha guadagnato? Aspetta. Lui dice: non capisce Salvini che coi rom ci si potrebbe guadagnare. Cosa ci si può guadagnare dai rom? Spiegami. Perché è giusto fin quando mi dice di buttare giù tutti i campi abusivi, perché quello è giustissimo. Sì. No? Però bisognerebbe ricostruirne altri ben organizzati, come succede magari per quelli, per i camper che ci sono già, no? Con le docce, l'acqua. E fargli pagare semplicemente l'affitto, tenerli lì 15 giorni come fanno in altri paesi. E se poi non pagano anticipatamente. Vabbè, sennò non pagare anticipatamente. Tu dici come gli affitti normali, cioè pagare 6 mesi di anticipo, 3 mesi di anticipo. Cioè, questa è una buona idea, però. Cioè, volete i campi, pagate un affitto per quanto vale quel terreno, che ne so, 5.000, 10.000 euro al mese, 20.000 euro al mese, ai proprietari del terreno, al comune. Un affitto regolare, come se affittassi a un capannone, a un commerciante, si affitta quella cosa lì. Io sono contrario, sono contrario perché io li distruggerei tutti. Ho capito. Io per me vanno eliminati. Però fammi parlare. Se si può recuperare quello che rubano in giro, l'accattonaggio finto che fanno, no? Almeno con i soldi che pagano l'affitto per i vari comuni, che poi con questa legge farebbero a gara ad avere gli zingari nei loro comuni, no? Almeno si ridanno alla società, non so se. No, invece c'è tutto dietro l'associazionismo, i comuni e la solidarietà e l'etnia e tutte queste palle qui. Volete un campo? Io sono contrario. Volete un campo? Pagate. Pubblicità. La zanzara è come una droga, quando non c'è chi manca. La zanzara. Como vai, Raffaele, vai. Sì, buonasera Pareto, buonasera Cruciani. Dimmi. Semplicemente un commento riguardo al sindaco di Padova e al presidente che è arrivato. Allora, primo direi che forse magari più che le farcolate servirebbe uno vedere se è idoneo il posto dove queste persone sono alloggiate. Nel qual caso basta mandare i vigili urbani all'ASL. All'altro... È una casa privata. Sì, ho capito, una è una casa privata, ma lei Pareto sa benissimo che in una casa privata bisogna vedere anche quante sono le persone che ci abitano dentro. Comunque, ovviamente la signora di 90 anni può offrire la sua casa in campagna, perché di questo si tratta, a chi vuole. Però attenzione, non è che uno dice voglio ospitare i profughi e arrivano i profughi. Per l'amor del cielo. Sono le autorità che decidono quale profugo va, in che condizioni ci va, se ci può andare, se non ci può andare, eccetera, eccetera. Se è idoneo il luogo. Mi pare che si sia rivolta alla cooperativa e la cooperativa gli ha assegnato. Polemica. La seconda parte invece riguarda anche il prete, parroco o quant'altro. Che ha fatto il parroco? No, non ha fatto assolutamente niente, ha detto tante belle parole, però la domanda che mi permetterei di rivolgere, che stranamente voi non avete fatto, è: nella sua chiesa quanti profughi ospita? Ma non lo so, guardi. Perché ospita con la sua cooperativa. Sicuramente ha una cooperativa, che si occupa. Perché purtroppo quando si parla di carità cristiana è sempre bisogna praticarla. È bello parlarne con i soldi degli altri. No, no, ma Raffaele, lei ha ragione, ma sicuramente, sicuramente attraverso la Chiesa, attraverso le associazioni collegate, qualche aiuto lo danno. Fermi tutti, adesso torniamo dopo il traffico, che dobbiamo fare? Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico. La Zanzara. Zanzarology, antologia della zanzara su Borghezio. Zanzarology, Zanzarology, antologia della zanzara. Era l'aprile del 2013 e Borghezio pronunciò queste frasi sui rom in gita, tra virgolette, alla Camera dei Deputati. La giornata della demagogia e del fancazzismo, esatto, poi con contorno di Festival dei Ladri, questo senz'altro, e speriamo che non portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili, di arazzi, di cosa. Sconsiglierei una visitina al Quirinale, perché lì poi c'è tutto il mobilio che lo Stato italiano di merda ha fregato agli stati preunitari. Questo era il pacato giudizio di Borghezio sulla visita dei Rom alla Camera, delle associazioni Rom alla Camera. Cioè, ha messo insieme lo Stato italiano di merda, i fancazzisti, eccetera, eccetera. Di tutto. Io ho avuto la soddisfazione di rivedere tante facce giuste, non quelle facce di cazzo che qualche presidente della Camera riceve, eccetera, con le grandi giornate, eccetera. Esatto, no, gente che lavora, io parlo, quelli che si vede a Pontida son gente che lavora, son... Fate interpellare un quidam de popolo per la strada, dice: lei cosa pensa dei Rom? E manco ti risponde, ti guarda come dire: ma che domanda mi fa? Penso quello che pensano tutti, che mano alla tasca del portafoglio per evitare che te lo portino via. Quindi è un riflesso pavloviano. Dice che devono essere orgogliosi del patrimonio della loro cultura. Beh, sicuramente. Diciamo una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta, indubbiamente molti Rom ce l'hanno. Un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, tenendo e con una certa preoccupazione, perché non sono in casa e quindi spero in bene. In casa mia non c'è niente da rubare, sia chiaro, sono vecchi libri. Non c'è un cazzo, tutti i beni sono a casa di mia sorella, io non c'ho un cazzo. Devo dirti la verità, caro Parezzo, quando hanno fatto riascoltare oggi in aula, aula 10, piano terra, Tribunale di Milano, durante il processo assurdo, secondo me, imbastire un processo a Borghezio per queste frasi, ma lasciamo perdere, ma le mie considerazioni sul tempo perso dalla giustizia italiana nello stare appresso a queste cose è veramente incredibile. Ma quando hanno fatto risentire 4 minuti di intervento di Borghezio alla Zanzara con l'aula tutta piena, hanno fatto risentire la Zanzara che risuonava lì con un apparecchietto, io mi sono messo a ridere e il presidente mi guardava un po' storto, no? Perché io ridevo, perché è un'aula di tribunale, ma ridevo come un pazzo, ridevo perché, ma molta gente rideva, e potevano incriminare anche te, ma guarda. Che incriminare me, sì. Comunque la cosa più incredibile di oggi è che poi Borghezio ha detto che è pronto a fare il volontariato, e questo è giù, è bello, è importante, presso un'associazione Rom di Torino. Però ho conosciuto, c'era anche Diana Pavlovic, un altro Rom che mi sembra che si chiami Tony Deragna, Tony Deragna, il quale ha detto che Borghezio dovrebbe cantare, cioè per raggiungere un accordo, per evitare una possibile condanna, insomma che questi vadano avanti, dovrebbe cantare, partecipare a una manifestazione Rom e cantare l'inno del popolo Rom, che io non sapevo nemmeno che esistesse, ma non credo che lo canterai, dalle notizie che ho avuto, non credo. Per il fatto di risarcimento non sono così, per il fatto nel senso di volontariato mi piacerebbe vedere Mario Borghezio cantare l'inno Rom e Sinti, Gelem Gelem di tutto il mondo, nella giornata internazionale del popolo Rom, con la bandiera Rom in mano e cantarlo. Sarebbe, come dire, una soddisfazione, ecco. Allora, questo signore qua era molto simpatico, sto ragazzo, gli ho detto, siccome era un po' in carne, no? Una specie di Borghezio Rom, per dire così, un po' più magro, a un certo punto gli ho detto: amico mio, però tu, cioè, lo vedi in faccia e dici: questo qua è un rom, no? Gli ho detto: amico mio, però non dare l'impressione, cioè, anche dal punto di vista, come dire, dell'immagine, no? Cioè, se ti presenti così, dai proprio l'impressione del prototipo rom, no? Ma quello a chi fa male, uno potrebbe... No, ma io è uno scherzo, non sto dicendo che è un criminale, sto dicendo è un ragazzo simpatico. No, ma sì, hai ragione, no, rideva, ma si scherza e si ride su queste cose, Parenzo, non so tutti quanti con le carte bollate come te, dai, su. Io non ho carte bollate. Io credo che il razzismo vada combattuto. Vabbè, dai, forza. Gabriele, provincia di Bologna. Dai, Gabriele, provincia di Bologna. Pronto? Se non ci sia razzismo. Dimmi, vai. Buonasera, io chiamo per... Francamente, in quelle frasi non credo che ci sia razzismo. Gabriele, provincia di Bologna. Sì, pronto. Dimmi, vai. Ciao, io mi chiamo Gabriele Rocchini, R-O-C-C-H-I-N-I, e chiamo per l'intervento sui cognomi. Vabbè, a noi però del tuo cognome non ce ne può fregare meno. Anche perché... a me sì, invece, perché indovinate come mi chiamavo prima del 1990? Come ti chiamavi? Gabriele Rocchini. Beh, attenzione, fermi tutti. Fermi. Però portami la prova. No, ti posso dire questo: mio zio, il fratello di mio padre, nonché tutta la dinastia dei miei genitori, si chiamano ancora così, cioè rimangono e hanno mantenuto... Bocchini? Proprio così, ma vi posso garantire che in Romagna, terra dalla quale vengo, ve ne sono parecchi, cioè peraltro un cognome anche abbastanza in voga, rinomato, insomma, quindi... però c'è chi se lo tiene, chi decise, insomma, di fare cambio, ma parliamo del 1990. Cioè, tu ti chiamavi Bocchini, Gabriele Bocchini. A un certo punto ne avevi piene le palle... Allora, io ho 33 anni, mio fratello cominciò ad accusare, un po' per bullismo, un po' per nonnismo, bullismo elementare alle scuole, dove i bambini nella loro dolcezza lo prendevano in giro. Gabriele Bocchini, e mio padre prese questa decisione: basta, cambio il cognome. Ma pure tuo padre l'ha cambiato? Sì, tutta la famiglia. Insomma. E chi è rimasto col cognome Bocchini? Mio zio, mia zia, però... E questi che dicono? Non gliene frega niente. Ma la cosa forse più divertente non è questa, è che dopo così gli sfottò gli insulti della scuola elementare, sì. Sei passato alle medie e adesso ti chiami Gabriele... Marco, ad esempio, Gabriele Marco Rocchini. Ah, che bello, Gabriele Marco Rocchini, che adesso fanno i... No, aspetta, che non ti sento, non ho capito. C'è un problema pure con Rocchini? Sì, perché chi ci conosceva prima sapeva, e quindi lo sfottò è diventato Gabriele Marco Rocchini, che adesso fanno i... Fate poi la rima, insomma, non è Gabriele, che Marco, Rocchini, che adesso fanno i bocchini. Vabbè, bella cosa. Vabbè, Gabriele, comunque tu l'hai cambiato, hai cambiato cognome. Dunque, sì, anche tu sei d'accordo sul fatto che cognomi sgradevoli devono essere cambiati? No, devono, però possono, secondo me, lo Stato dovrebbe garantire comunque che tutti possano vivere in maniera serena. D'altra parte, io non vado a rinnegare il fatto che... io non rinnego le mie origini, anzi, io, cioè, conoscendo tutta la dinastia, sì, però Bocchini è brutto, dai, Bocchini è brutto, dai. Toccola, Mariano Toccola, non sarebbe corretto in una società civile, non sarebbe corretto, non è neanche giusto, ma ci dobbiamo, diciamoci la verità, guardiamo la realtà in faccia. Quando vai alla scuola elementare, mio figlio quando va alla scuola elementare, io capisco che dei bambini di 7, 8, 10 anni quando gli dai, se gli dai la possibilità, un bambino non ha la cultura. Ma è vero, è vero. Fermo lì, ciao. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. State ascoltando un programma offerto da AET Italia, l'energia elettrica per imprese e reseller. Visita il sito aetitalia.net. La Zanzara. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da O'Clockers. Apprendo sgomento, caro Parenzo, apprendo sgomento che i ladri si sono fatti vivi a casa della baronessa, contessa, non so come chiamarla, Marisela Federici. incubo di Marisela Federici, regina dei salotti romani. Così tre uomini incappucciati hanno portato via gioielli e ricordi. Buttati a terra e stai zitta, apri la cassaforte o ti ammazzo. Leggo oggi su un giornale romano Il Tempo. Preghiera ai rapitori, non rubatemi tutti i gioielli, lasciatemene almeno uno. Ma voi ricordate, ascoltatori della Zanzara, popolo della radio, chi è la contessa Federici? La contessa Federici è quella che disse una volta, anche se lei poi contestò questa roba qui, che i suicidi sono per gente tarata. Ma non vedi come finiscono, si buttano? Quelli sono gesti disperati che non portano a nulla. Molto meglio la speranza. Secondo me hanno un altro tipo di problemi. Hanno più problemi mentali che problemi reali di economici ed altro. Sono persone che hanno già qualche tara mentale che li porta a gesti disperati. Cioè, quelli che si suicidano è perché hanno altri problemi, non problemi economici, diceva la signora Marisela Federici. Poi la intervistammo anche noi e parlò dei suoi cuochi, il cuoco birmano. Te lo ricordi il cuoco birmano, Davide? Come no, certo. Beh, anche quelli con le piume, certo. Un cuoco birmano. Un amore, quello è un amore. Una cosa raffinatissima, il cuoco birmano. Ma perché birmano? È raffinatissimo? Beh, è raffinato, è il cuoco birmano. Ma come se lei mi dice che uno filippino o un venezuelano, un thailandese, sono tutte persone che hanno un'arte. Beh, loro certo, hanno un'arte, certo, perché cucinano in un modo ecologico, sano, molto economico, tra l'altro. Beh, economico, questo poi bisogna vedere. Comunque molto economico, ma tutto vegetale. Adesso, qui la carne non si sente neanche l'odore. Vabbè, insomma, la contessa Federici ci raccontava quello che succedeva alla furibonda, alla sua casa sull'Appia. Io gli farei una telefonatina, lei farei una telefonatina, perché questa storia mi ha veramente colpito, Parenzo. Cioè, tre uomini incappucciati che portano via un sacco di gioielli a casa della contessa. C'è da ridere, la regina dei salotti romani, la contessa Marisela Federici. Marisela? Sono Giuseppe, che ti è successo? E David? Tre uomini incappucciati, gioielli. No, ma già passato qua. Non voglio parlare di questo. Perché ma non come vuoi stai? Parlare? Almeno dici come stai, cara, sono Parenzo. Come stai, amore mio? Ma adesso amore mio. Sì, bene. Guarda, no, io sto è bene, tu. Ora ti spiego. Giuseppe, ci sei, amore? Sì, ci sono, tesoro, ci sono. Tutti amore, però insomma, No, ma amore vero, fammi ridere, non mi far piangere. Lo come so, vero, appunto, ma avete letto, avuto una storia ma voi con Giuseppe. Amore, passione. Passione, grande passione. Più dell'amore. Scusami, Marisela, ma adesso stai ridendo. No, veramente, guarda, mi hanno rubato tutto, tutti i gioielli che erano in una stanza e hanno fatto un colpo pauroso. Ma quanti soldi ti hanno rubato in tutto? Soldi, hanno preso tutti i gioielli, amore, soldi vuol dire nulla. Beh, gioielli di che valore? Il valore lo sanno solo... Chissà. I mariti che le hanno comprato, vedi le mie risposte. A me erano molto cari perché erano... Sì? Li portavo da tutta una vita. Ma quanti te ne hanno lasciati di questi gioielli? Quelli che erano in un cavò che non era portata di mano. Ne abbiamo tanto da sfoggiare ancora, però quelli più belli che ammettevo, voi li più o meno li avete visto e purtroppo sono partiti. Ma t'hanno picchiato? No. Non t'hanno picchiato. Questo. Ma come... le voci di che erano italiani? No, le voci non erano italiano, per cui quando tu dici quella gente deve andare via dall'Italia, quelli che si sono infiltrati nella nostra città e vivono facendo queste cose, avete ragione. Cioè devono andare via quella gente che non ha una fissa dimora, che non si sa da dove viene. Magari sono quelli che stanno in casa, che ne so. Cioè i clandestini devono andare via, quelli che non hanno un lavoro devono andare via. Quelli devono andare via. Devono andare. Arrabbiato, chi è che Parenzi, tu che sei che li difendi? Io anche li difendevo. No, ma tesoro, amore? Voglio capire questo, con tutta quella servitù che hai in casa, telecamere. La servitù qualche volta tradisce. Ha una specie di omertà che non si capisce. Cioè? Sai che c'è un'espressione che dice gatta cicova? Sì, cioè c'è qualche talpa all'interno della grande villa. Entraresti alla furibonda di notte alle 7, casa sua. Furibonda la villa. Sì, scusami, scusa. Di notte alle 7 che era ancora buio, già buio, era il preludio del buio. Andresti a tirar fuori una scala da pompieri, armare una scala, metterla sull'unica finestra, che siccome Io sì. voglio sentire il rumore della natura, gli uccellini sì, che fanno uccellini, certo. E la cosa, se, metterla lì, salire su quella scala, certo. Ma cacciali ci sono tutti. Indagini in corso. Cacciali tutti, Marisela. No, non posso, no. Vedi, amore santo, non posso. Perché non puoi? Posso perché poi è peggio. Perché è peggio, bravo, hai capito? Faremo noi delle indagini per te. Guarda, la zanzara. Allora, io ho avuto un silenzio quasi eloquente di questa storia. Ti posso consigliare una cosa, tesoro? Dimmi. Assolda l'avvocato Taormina, lui sarà in grado, anzi possiamo anche chiamarlo al volo, forse che lui è anche in grado di farti proprio delle indagini strutturali nella villa furibonda. Ho fatto tutto, guarda, sì. Però scusami Marisela, ma eri assicurata o no? Questo non lo posso dire. Beh, è importante, è importante. No, no, importante. No, ma a me terrorizza, scusami Marisela, mi terrorizza di più sapere che dentro questa grande villa c'è una talpa. Questo... Ah, bravo, vedi, pensa che... Saperti là da sola con una talpa, beh, amica mia, questa cosa, con qualcuno che ha tradito, perché va detto così, questa bravo. Cosa mi terrorizza e vorrei chiamare il professor Gelsomino. No, vado io a dormire lì, vado io a dormire, vado io a dormire da te. Allora, no magari, ma Giuseppe, anche lui è padre, Giuseppe, vengo io da te, anche lui vengo, vengo a proteggerti. Guarda che ti hanno sentito una volta che ha detto quella bonazza. Vengo a proteggerti Marisela, vengo... detto, Giuseppe, a me non me ne frega niente delle talpe. Quella bonazza della Federici. Beh, bella signora, stupenda, meravigliosa. Ah, così hai detto, bonazza della Federici. Grande cougar. Così hai detto. Bonazza, hai detto che io ero una bonazza. Così hai detto. Ma sì, bonazza, nel senso così, no, certo, sì, bonazza, detto, assolutamente, detto, sì, sì. Due punti, quella bonazza della Federici, va bene. Ma detto. di più. Beh, sei molto una persona... Cioè, faresti l'amore con la Federici, no, Cruciani? Ma domani mattina, subito. Ascolta, subito. Sì, subito tu però. Tu ti rendi conto che significa sì. vivere... Vivere e sapendo che certo, c'è forse in casa c'è un Giuda. Che l'ho detto io. Beh, quello è il punto. No, questo è, per questo, questo ti dico chiama Taormina subito il professore. No, ma tutto già fatto. Senti, ma farai ancora delle feste? Sì, ovviamente. Io non vedo il perché della mia vita. No, sono molto selettiva perché lì tu capisci molte cose che per me prima erano. Così. Io in che sono senso? Una generosa, io sono una generosa in che senso? Spirito. In che senso? Capisci molte cose. Adesso però vedi che c'è gente che gode. Ah, addirittura c'è gente che gode. Beh, certo, hanno rubato a casa della ricca, dicono, no? Hanno rubato. Hai capito che godono. Allora c'è brutto, gente che gode, sì, c'è gente che gode, sicuramente. Sì, ma è brutto, brutto. Sì, ma... C'è gente da parte mia a dire questo. C'è gente che gode, quel piacere... No. Io godo con chi voglio. Godi in altre cose, diciamo. Con quella gente meschina non condivido. Senti, Marisela, io voglio capire una cosa, ma tu resti comunque ricchissima, nonostante questo furto, resti ricchissima. Ci mancherebbe. Ma che vuol dire? Io sono ricca di animo. Beh, oddio, anche di altre cose, però, insomma. Ma dai, la più importante è l'animo, quello non te lo toglie nessuno. Ma hai letto che belle parole che ho detto? Vado prego, non so, leggo moltissimo, ho la tomba di Seneca davanti a casa, che vuoi dire? Dovresti fare un po' più all'amore, cara Marisela. Ma quello, sto aspettando che Giuseppe si dia da fare. Ti vengo a proteggere, erano incappucciati, ma non è che erano Rom, no? Ma perché, scusa? No, aspetta, non era un Rom, perché... Lui aveva mangiato dell'aglio. Come l'aglio? Sai che io l'ho abbracciato a questo uomo. Ma com'è? Abbracciato il ladro? Abbracciato il ladro. Sì, perché ero terrorizzata. Beh, è bello però. Non giusto. Ride, non rispetta. No, ma per disinnescare la violenza. Aspetta, questo, spiegami questa cosa. Furba. Spiegami. Furba. Sono entrata in questa camera e c'è un salottino fra Paolo e me. Sento dei strani rumori e siccome Paolo è sordo è un fortunato della vita, ma lui era nel suo studio giù. Noi non avendo più il telefono con il centralino, comunicare in questa casa è abbastanza difficile. All'improvviso ti esce uno, sai quelli che vedi in TV che hanno solo gli occhi? Sì, col passamontagna. Già ti paralizza una... Hai urlato, che hai fatto? Hai urlato? No, ho detto, come sei entrato? Perché ho visto lui prima. E lui? E lui non mi ha risposto, le ho detto quanti siete, tre. Quando l'hai abbracciato, scusa? L'ho abbracciato mentre mi minacciava. E lui? Detto, e lui? E lui è stato colto, commosso del mio arrendermi. Io ero arresa. Ma bene, ma non ce l'hai una pistola a casa? Ma come vuoi, ma tu non ti sei non ti auguro di trovarti. No, ma non ce l'hai una bella pistola? Perché c'è gente che spara quando vede i ladri ormai. Ma non puoi fare una cosa del genere. Cioè, è sbagliato sparare? La violenza contro la violenza non genera che doppia violenza. L'insegnamenti di Marisela Federici, no, fantastico. La mia reazione è stata la più saggia, perché è la prima volta che un ladro trova una signora conciata come me ai suoi piedi. Non è da tutti i giorni. No, beh, certo. E questo ha barattato addirittura un paio d'orecchini. Come ha barattato un paio d'orecchini? Giuro, le ho detto lasciami questo, ti prego, lasciami qualcosa. Gli orecchini gliel'ho pescato nel malloppo che aveva. Cioè, sei riuscita a rubare un po' gli orecchini? Ma hai contrattato con... Ho rubato al ladro un paio d'orecchini perché io volevo uno dei brillanti. Mentre cercavo uno di quei brillantoni miei, sì, ho visto apparire questi orecchini. E l'hai presi? Beh, meglio pacaro in mano che cento in volo. Non c'è dubbio. Ciao Marisela, ti abbraccio, ciao. Ciao. Amore. Ciao tesoro, a presto, ti vengo a proteggere io. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Furto a casa Federici. Va bene, Gian Alberto Roma, vai. Salve, sono in linea con i due simpatici stronzi. Pronto? Vai, dimmi, Gianalberto, vai. Lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama? Paranza, esatto. Paranza, sì, la sua madre, Paranza. Esattamente, uguale mi chiama. Si calmi, può dire si calmi tutto lei. Di me, ma su mia madre stia un attimo. È uguale, si è forza, Paranza, sì, esatto, come i suoi parenti. Avanti, vabbè. Avanti, dai. Vai, Gianalberto, vai. Che a me dei profughi non me ne frega assolutamente niente. L'aperitivo, ma per 35 euro al giorno, porca Eva, me ne prendo anche una camionata. Beh, i soldi non fanno mai male, no? Cioè tu dici non te ne può fregare di meno, però se te danno 35 euro al giorno. Ma li metto vabbè, però glieli devi dare a loro 35 euro al giorno, però non è che te li danno a te. No, li danno a lui. Ma volendo. Sì, da lui per farli campare, così, però. Infatti in tanti hanno fatto così anche in passato, che è scattata tanti, la truffa. Ma quando... Beh, sai, la storia di Mafia Capitale, sì, oltre a tutto il resto, c'era euro, anche questo. Ma beh, che incassavano soldi per prendersi le cura associazioni, di... sì, d'accordo. E poi hanno truffato. Vabbè, Gianalberto, allora? Hanno fatto bene, perché un'uscita di soldi che a monte non deve esistere. Queste persone devono essere aiutate là. Vabbè, ma questo è un problema diverso, devono essere aiutati là. Il problema è che non c'è uno Stato, non c'è niente. Meglio per loro, chi se ne fotte. Meglio per loro. No, ma la cosa fondamentale è il respingimento, guarda. Quando si arriverà a capire che respingere è la cosa più umanitaria del mondo. Ma se non c'è lo Stato. Più umanitaria, ma che c'entra la Libia? Non è che vengono tutti dalla Libia. L'Australia riporta su un'isoletta e poi decide che farne. Ma fenomeni migratori come i nostri. Ma chi te l'ha detto, ma le stronzate che dici? Ma chi affronta quel braccio di mari Emanuele. Napoli, vai. Sai dov'è la Australia? Vabbè, ma prendili tutti, ma che ce frega, pigliamoli tutti, dai. Emanuele, Napoli, vai. Emanuele? Sì, arrivo. Arrivi? Ma che stai a fare? Arrivo. Vabbè, chiudiamo, dai, ormai. Quello... Dimmi. Ah, sei? Un attimo, togli la voce al centro di incassi. Sì, bravo, togli la voce. Okay. Bene, dimmi. Stavo facendo notizie. Allora, ti dico una cosa che sicuramente sei d'accordo, però ti devi ascoltare bene. Dimmi, vai, veloce però. Allora, sì, velocissimo. Praticamente, io sono contrario a respingere gli immigrati che arrivano, perché noi facciamo l'errore di associare che la terra è nostra, quando in realtà noi siamo soltanto ospiti. Ma siamo ospiti di chi, scusa? Della terra, cioè l'Italia non è tua, Milano siamo, non è tua. Siamo non è ospiti della terra, dai su, Emanuele. E allora? È giusto che loro possano venire, però non hanno nessun diritto. Non hanno nessun diritto. Ma tu che stavi facendo prima di venire a parlare? Lo spostato delle 20:51. Sì, che stavi facendo? Le pizze, che stavi facendo? Le pizze. Ecco, continua a fare le pizze, va. Ci sentiamo lunedì, ragazzi, 18:30, ciao. Sì, ma dai, fatti bravi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto tutto degradato ormai. Radio 24. La passione si sente.